chiaro di luna malato, su di un parcheggio abbandonato, ferma nel sonno inquinato, dorme l'intera città. E quanti sogni in prigione, dietro finestre senza nome, e quanti cuori in pensione, già prima dell'età. Io non voglio invecchiare, vi guardo da giù e mi metto a cantare per chi non canta più. E sono qua ad abbaiarvi questa serenata, signora, dico a lei che si è affacciata, risponda se è felice oppure no. E tutti voi, nei vostri dormitori verticali, scendete sotto il lume dei fanali, parliamo un po'. E già, la gente non si parla più abbastanza, prendetevi mezz'ora di vacanza, vi aspetto giù. Si è spenta senza rumore l'ultima luce del quartiere, chi mette a letto il suo cuore è morto e non lo sa. Io non voglio invecchiare, io resto qua giù e continuo a cantare per chi non canta più. E sono qua ad abbaiarvi questa serenata, ai vostri cuori tento la scalata. Lo so, signora, sono già le tre, ma creda a me, meglio morir d'amore che di tristezza, e fare il pazzo è l'unica salvezza, secondo me. Ma sì, mi butti un secchio d'acqua o 5 lire, è un modo come un altro per capire che batte ancora un cuore in questa mia città.